Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it, il mio blog sull'homepage del Sole 24 Ore si chiama Guardie o Ladri, lo trovate anche facilmente attraverso un motore di ricerca. Ieri abbiamo cominciato a parlare di un tema interessantissimo e, lasciatemelo dire, forse molto sottovalutato dai media nazionali, trattato invece da quelli locali e trattato dal Sole 24 Ore a più riprese, l'ultima volta il 14 agosto. Di cosa parliamo? Della legge sulle primarie per la scelta del candidato governatore nella regione stessa, approvata dalla regione Calabria a fine o comunque a metà agosto e che è entrata in vigore il 25 agosto. Agosto 2009, abbiamo sentito ieri la voce del, diciamo così, papà putativo di questa legge, il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Bova, che è favorevole a questa legge, e invece abbiamo sentito la voce critica del consigliere Feraudo, capogruppo in regione per l'Italia dei Valori. Un articolo in particolar modo è rischiosissimo, a giudizio di molti docenti universitari, di molti esperti in materia, ma, e qui secondo me bisogna non tenerne conto, ma se possibile qualcosa di più, a giudizio dei magistrati antimafia, cioè di coloro i quali dalla mattina alla sera, da anni, combattono il fenomeno e le forme più, diciamo, perverse dello stesso. Quell'articolo 9 della legge della Regione Calabria che consente la libertà di chiedere una scheda con la lista o la coalizione delle liste che si intende votare in maniera palese. Quindi manca la segretezza del voto, ma soprattutto si dice coram populo pubblicamente per chi si intende votare. Quello che rimane segreto è solo il nome che si intende votare. Questo, a giudizio di moltissimi, apre un varco enorme al rischio di infiltrazione delle cosche che fuori e dentro i seggi in moltissimi comuni calabresi dominano il voto. Ieri, oggi e forse ancora di più domani. Per saperne di più io ho chiamato a parlarne innanzitutto due magistrati che da anni sono in prima linea, vale a dire il sostituto procuratore nazionale Alberto Cisterna. Buongiorno Cisterna. Buongiorno a lei, dottore. E il sostituto procuratore nazionale antimafia, il dottor Vincenzo Macri. Buongiorno Macri. Buongiorno. Allora, a lei. Io partirei da lei, Macri, perché lei è stato molto duro, non che Cisterna non lo sia stato, ma la sua esperienza è sicuramente di più ampio respiro. E quindi chiedo a lei, se non altro per ragioni anagrafiche, e chiedo a lei, dottor Macri, qual è il suo giudizio su questo articolo 9? Guardi, io sono intervenuto sulla legge delle primarie calabresi perché appena l'ho letta mi ha colpito l'articolo 9, quindi il problema che riguarda la segretezza del voto. Questo non vuol dire che questo articolo esaurisce tutti i possibili problemi sollevati da questa legge, ma io ho preferito concentrarmi su questo aspetto, perché è un aspetto secondo me fondamentale. Intanto c'è un problema di carattere generale, e su questo il professore Spadaro potrà intervenire molto più autorevolmente di me, che riguarda la violazione della Costituzione, laddove garantisce che il voto debba essere libero e segreto. Teniamo conto che la segretezza, così come è prevista nella Costituzione, è a garanzia della libertà. E dunque è un'endiadi strettamente necessaria, non ci può essere un voto libero se non è assicurata la segretezza. Questo è il punto fondamentale da cui io sono partito. La legge purtroppo su questo è chiaramente incostituzionale perché viola questo principio in maniera clamorosa, dal momento che l'elettore deve esprimere l'appartenenza o comunque la scelta di una lista, di un partito o di una coalizione di partiti. E su questo poi torneremo appunto con nuovi ospiti che lei ha già annunciato. Quanto al rischio mafia? Produce a cascata delle conseguenze di carattere negativo Penso per esempio alla violazione della legge sulla privacy, che anche questa è clamorosa, perché le preferenze politiche fanno parte di una sfera riservata della personalità e quindi anche queste non devono essere esposte al pubblico, ma poi pone dei problemi in una regione come quella calabrese, perché pone l'elettore nella condizione di dover esprimere la sua appartenenza in un contesto, spesso almeno in contesti dominati da organizzazioni mafiose che invece possono avere, come dire, interessi contrari, cioè hanno interesse a sostenere una determinata lista o più liste, e quindi l'elettore si pone in una situazione di potenziale conflittualità e in una situazione di, come dire, di estrema difficoltà di essere libero nella scelta del voto. Assolutamente. D'altra parte abbiamo decine di esempi di persone di processi nei quali il condizionamento elettorale è apparso manifesto attraverso l'intercettazione o altro. Ricordo una recente misura cautelare proprio dell'anno scorso nella zona della piana di Gioia Tauro, dove un candidato diceva che loro dispongono di almeno 50.000 voti, Esattamente, quindi probabilmente in quei comuni, nella piana di Gioia, ma ahimè anche in altre zone, basti pensare al Crotonese o alcuni quartieri storici di Reggio Calabria, la libertà di espressione del voto non potrà essere poi così tranquilla come si può credere in altre parti d'Italia. Dottor Cisterna, è d'accordo con la valutazione di Macri e ha qualcosa in più da aggiungere, oppure, come dire, è un allarme troppo gridato da noi della stampa e da voi che tutti i giorni combattete il crimine? No, ma vede, qui per così dire le polemiche nascono, perché poi polemiche ci sono state anche dopo l'intervento iniziale che si è in qualche modo concordato con il collega Macri sulla stampa locale. Le polemiche ci sono state perché sono polemiche che si incentrano sulla opportunità dell'istituto delle primarie, che sarebbe già tutto da discutere, cioè è una questione che andrebbe valutata quale esigenze e quale necessità ci siano dietro questa legge, che è una legge che in qualche modo costituisce un unicum nel panorama nazionale, salvo un'eccezione in Toscana che prevede un meccanismo comunque diverso. Cioè, quindi da un lato, insomma, le esigenze e le urgenze della politica calabrese non sembrano proprio quelle delle primarie e di questa ventata di democrazia che dovrebbe attraverso le primarie attraversare la regione. Mi pare ci siano buone ragioni di scetticismo, anche perché resta intatto il meccanismo elettorale, quello per così dire delle secondarie, cioè delle elezioni vere e proprie, nelle quali i signori delle tessere, i pacchetti dei voti si muoveranno liberamente. Cioè, chi dice che con le primarie si siano sterilizzati i tentativi di infiltrazione dice una cosa che obiettivamente non è vera, perché di lì a dopo, certo, di lì a poco dopo le primarie, il voto ritornerà come è stato espresso nel 2005. Ed è questa una considerazione. È costato la morte all'onorevole Fortuna. Ed è questa una considerazione. Su questo punto, come ho insistito nel primo momento. Ecco, ed è questa una considerazione che attendevo, e del resto la sua intelligenza non poteva non rilevarla. Vale a dire che poi c'è un dopo, si andrà alle elezioni regionali indipendentemente da quello che è successo nelle primarie, e quindi sarà un voto ancora condizionato, un voto che quest'anno si presenta ancor più difficoltoso, quest'anno, mi correggo, il prossimo anno nel 2010. Chiedo a lei, Cisterna, e poi lo chiedo anche a Macri, la stessa identica domanda: ma noi giornalisti dove siamo? Cioè, come mai questa legge regionale non diventa un caso nazionale nella politica nazionale? Dove sta l'attenzione dei partiti? Dove sta l'attenzione dei giornalisti, Cisterna? E poi la stessa domanda a Macri. Guardi, qui non ci si può aspettare che una società civile che mostra sofferenza rispetto all'invadenza della politica e dell''ndrangheta si risvegli di colpo, perché il 6 di agosto, quasi mezzanotte, si approva questa legge nel silenzio totale, insomma, nella non consapevolezza dei tanti bagnanti della Calabria. Perché qui poi è venuto fuori anche per caso, diciamocelo, ce l'abbiamo tirato fuori per caso questo. Era sì scrutinato e sotto l'attenzione dei tecnici che in qualche modo conoscevano il provvedimento, ma la sua approvazione è arrivata un po' così inaspettata da parte della società civile normale di questa regione, cioè quella che insomma si documenta con mezzi assolutamente non privilegiati né di conoscenze né di consapevolezze tecniche. Certo. Detto ciò, chi vuole che si ribelli in Calabria? Cioè, se qui l'idea è che poi si andrà a votare col meccanismo del 2005, se qui l'idea è che tanto i signori dei partiti, perché questa è anche una legge che in qualche modo questi signori dei partiti, a mio avviso, lo dico al cittadino, li protegge, li tutela e li perpetua, se i signori dei partiti conteranno, come è probabile che conteranno nel 2010, chi vuole che si ribelli quando c'è una regione che vive di fondi pubblici, vive di assistenza pubblica, vive insomma di clientelismi più o meno spaccati, con una società civile invece produttiva, per così dire, capace di operare, che si vede sempre più marginalizzata. Ecco, la Calabria, che il malaffare è una questione che va al di là e supera l'andrangheta, certo, la ingloba, la rende addirittura un braccio operativo talvolta. Quindi ecco, chi ribelli e che dica niente. Se non c'è appunto un percorso di speranza in questa regione che insomma pare difficile intravedere. Ecco, io ringrazio Cisterna per questa accalorata difesa di un popolo che poi, attenzione, è il suo popolo, perché Alberto Cisterna è un magistrato calabrese, così come Macri. Macri, una parola di speranza almeno da lei, ce la dia, anche lei è calabrese. Ma guardi, le primarie potrebbero essere anche uno strumento di democrazia. A me non interessa entrare nel dibattito politico, a me interessa avvertire circa l'esistenza di problemi che sono molto rilevanti. Io volevo aggiungere a quello che ho detto, per esempio, un problema che riguarda me come cittadino elettore. Io sono magistrato, avrei difficoltà a partecipare a delle primarie nelle quali dovrei esprimere la mia preferenza verso questa o quella lista. Perché il suo status di magistrato, esatto, glielo impedisce. Di esprimere questo, certo, tipo di preferenza, certo, quindi certo. Questo è già un problema. Ci fermiamo qui, domani continuiamo con lo stesso argomento per la terza ed ultima puntata. È un approfondimento che vale assolutamente la pena fare. Grazie a regia Filippo Oreggi e in studio Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.